Anno 2004. Il leggendario mondo digitale noto come DigiWorld si risveglia. Queste sono le avventure dei Digi Prescelti. Takuya, Zoe, JP, Tommy, Koji! Digimon Frontier. Stiamo viaggiando sopra tre